Gentildonne, gentiluomini, sta per incominciare la messa in scena di mezzo radiofonico di puntata di Chiedo Asilo. Tutti davanti alla radio. Chiedo Asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. Dai, dai, un po' più di enfasi, dai. Bentornati agli uffici. Sì. È dura, dopo il ponte, voi che fate il ponte. Il ponte. Vedete i colleghi che hanno anche loro fatto il ponte. Ed è agghiacciante. Vabbè, ma cosa fai? Il cazzeggio radiofonico par excellence. Sì, quando sì, sei tornati sto da cercando lavoro, di sublimarlo. Era solo per dire, Drago, che oggi è mercoledì. Ma è come se fosse lunedì. No, però adesso quindi è un inferno. Smettila, non ricominciare con i soliti parallelismi. Oggi è mercoledì, giovedì, come il succo lunedì. Basta, del... oggi è mercoledì, basta. Drago, mancano solo due giorni al venerdì. Ma sì, ma tutti i mercoledì dici la stessa cosa. Mercoledì c'è lo scavallamento del mercoledì. Perché sì, perché si scavalla la settimana, quindi... si scollina, Drago, sì, si fa il giro di boa, sì, Drago, sta zitto, scusa, Tito, t'ammazzo. Allora, cavalli, colline, boe, ma di che cosa stai parlando? Sto parlando del venerdì. Vabbè, io invece voglio parlare dei diamanti della Lega, la sai la storia, no? Sì. Sai che si dice i diamanti sono per sempre, eccetera, invece no, loro ne hanno restituiti, quindi... Ma a chi? Alla Lega. Ma prima chi li aveva? È sempre la Lega. E quindi? E quindi non lo so, capa, mi fai sempre queste domande, tu, ma domande come? Su domande. Ma tu dici cose senza senso. Ma io non invento niente, leggo i giornali, te li cito così come sono, quindi non farmi domande, apprezza l'assurdità delle cose come stanno. La Lega ha restituito i diamanti alla Lega. È così. E vabbè, oggi è come se fosse lunedì. Lunedì. Chiedo asilo! Would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar and be better off than you are. Oh, would you rather be a bureau? L'allegra tribù degli adulti bambini si arricchisce, Drago, di un elemento nuovo, e cioè Johnny Depp. Johnny Depp? Johnny Depp. Come? Che recentemente ha ammesso di essere un grande bambino. Ma pensa, un bambino grande. Tenerone, un grande bambino. Il grande pennello, il pennello grande. No, nel caso di Johnny Depp, un grande pennello. Probabilmente. E che il suo pubblico preferito, quello di Johnny Depp, sono le donne. È quello dei bambini. Ma no, ma non è vero. Aveva già detto Michael Jackson. Ma quindi preferisci sappiamo i pirati? Sappiamo com'è andata. Vabbè, sì. Lui preferisce i pirati a Donny Brasco. Quando recita preferisci però fare... Però intanto ha appena finito di girare The Rum Diary. Rum Diary. Senti com'è? Rum, che sarebbe Diary. Il diario del rum, già un titolo. Un film in cui l'alcol scorreva a fiumi. Sì. E quindi si è rituffato prepotentemente e allegramente anche nell'alcolismo. È proprio roba da bambini. Giro, giro, sbronzo, bevo il vino rosso, bevo il vino bianco, casco giù sul fianco. Giro, giro, bronzo, deve essere uno stronzo. Eravamo amici. E ora, bambini, ricreazione. Allora, siamo pronti? Certo che siamo pronti, lo sa che arrivo sempre 50 minuti prima. Ma Alberto, la puntualità, ok che è una cosa importante, però io imparerei a essere felice in ogni momento cogliendo l'attimo, e cogliere l'attimo non significa prepararsi prima e prendere la rincorsa, perché la rincorsa è un atteggiamento che il fagiano non ma ha, il fagiano non rincorre. Ma questa è già lezione, la rincorsa, bisogna rincorrere qualcuno. No, ti sbagli, tu devi essere rincorso. Come essere? E se no non ti facevo il capo dei lupi, non ti facevo di certo il capo dei fagiani. Ma poi questa roba dei fagiani ancora non l'ho mica digerita. Comunque, qui io sono qua, ho pagato per essere istruito. Allora io ti insegno. Qui siamo alla terza lezione e di cose pratiche, appunto. Di avventure, cioè avventura, no? Adesso, pericolo. Adesso io, proprio per venire incontro a questo tuo bisogno che sento così forte nelle ultime uscite, negli ultimi raduni, pensavo proprio di parlarti di un'arte, di insegnarti l'arte della fuga. L'arte della fuga? L'arte della fuga. L'arte è innanzitutto un importantissimo libro che ha scritto Giuseppe Pontigia. Che no, ma un attimo, senta, quei libri, l'arte della fuga, qui non devo scappare io, devo cacciare, no? Ma non come? Scappare. Poi l'arte della fuga era... Ma tu lo sai qual è l'urlo, il motto dei fagiani? Il motto dei fagiani è: viva la fuga!